radio tu mi ascolti, lascia che mi monti un po', faccio lo show che tocca i 35 ascolti, oh, mica cazzi e mica la fai tu, se TV non passi e non ti passo il tuo. Ho paura di non sapere che dire, è già così ma non lo voglio capire. Una volta e poi mi toccherà morire. Spero stia scopando ma non prima di venire. Ti piace questo rap e mi riempi di gioia, nonostante te lo sbatta con dei modi da troia. Adesso in diretta un consiglio dalla radio, se a casa della donna guarda bene nell'armadio. Se ci ascolti godi, se le amo.